Buonasera, ben ritrovati a questa nuova puntata di Maite FM, la nostra sigla tagliatissima per starci dentro con i tempi. Questa nuova puntata parlerà di Westerman, ovvero Will Westerman, 28enne cantautore di West London, che ha appena pubblicato il 5 giugno il suo album di debutto Your Hero Is Not Dead. E come nella migliore tradizione di Maite FM, partiremo adesso con non il primo pezzo ma due tracce, in quanto la prima è piuttosto breve. Si tratta di Drawbridge, seguita da uno dei singoli di spicco, The Line. Your hero is not dead. Your hero is not dead. Your hero is not dead. Your hero is not dead. Già sentire un po' la cifra stilistica che rimanda un po' al prog unito al folk e a questi tocchi di pianoforte che ricordano quel movimento descritto come sofisti pop, che aveva recuperato molti elementi anche del jazz, come Style Council, Shadei, Prefab Sprout, The Blue Nile. E anche qui ci troviamo catapultati. Baby, I miss you. She's all upset again, wolfing her van. I open up, sit with the issue in the sun, with an ice cream in my hand. Am I looking too closely? Am I taking it too far? I want to know about where the line is. The line is. In un suono che è riconoscibilissimo per chi c'era. Infatti ho anche letto, si dice che questo disco è particolarmente godibile per ascoltatori di una certa età che possono ricordare certi suoni che per me rimandano alla prima metà degli anni Ottanta. Step into the circle, watching the stars with a certainty felt. Am I looking too closely? Am I taking it too far? I want to know about where the line is. The line is. The line is. The line is. The line is. The line is. The line is. Un'epoca in cui le melodie erano strane, i synth avevano quel suono particolare. Remember that day back when there was nothing. Maybe that day only made sense if there is something. Remember that day. del contenuto di questo pezzo, The Line, e dobbiamo dire che i testi sono molto poetici, nel senso che sono abbastanza oscuri. Però nel giorno in cui è stata diffusa, il 6 maggio, Westerman ha scritto che è un pezzo sul relativismo morale, cos'è accettabile e cosa no. Sono dei parametri sempre mutevoli col tempo, riguardo a questioni per esempio come gender, diritti umani, genitorialità, politica. Certo, non significa che non esista più un concetto di giusto o sbagliato, ma è vero che i valori normativi sono in flusso costante man mano che, si spera, noi diventiamo più compassionevoli ed empatici. Perché c'è molta impronta filosofica in quest'album, Your Hero Is Not Dead. Ma partiamo dagli inizi della carriera di Will Westerman. Abbiamo detto più o meno 28enne, West London tra Hammersmith e Chiswick. Necktie at the window. He's here to show you. Studia musica fin da bambino, a 8 anni inizia a cantare in un coro, questa grande fascinazione per la musica corale, quindi anche per tutte le linee melodiche, le voci che si stratificano e si incrociano. And everybody's coming back from Harvard. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Harvard. È una delle prime tracce musicali a suo nome sulla sua pagina SoundCloud, ovviamente. E si sente che è un pezzo molto influenzato dal folk americano. Blood lines at the disco. E dopo l'università comincia a suonare, ad esibirsi nelle serate e open mic, tu prendi, sali sul palco e fai la tua cosa in locali londinesi. E poi particolarmente in una serata che si chiama Blue Flowers, e che poi diede luogo ad una etichetta dello stesso nome. Un'etichetta che noi abbiamo già nominato, anche perché è stata la prima etichetta di un'altra artista, sempre di questa scena molto vivace, West London, ovvero Niloufer Yanya, cui dedicammo la nostra monografia nel marzo dell'anno scorso. Un'etichetta fondata dal suo manager Chris Pearson, e etichetta su cui ha pubblicato tutti i singoli ed EP. Ma questo primo pezzo, Harvard, insieme ad altri pezzi come Misanthropee, Jericho, Mother Song, sono stati pubblicati su SoundCloud e anche su YouTube, ma non proprio come vero e propria release. Le radici appunto sono molto folk, grazie alla musica che suonava e ascoltava in casa il padre, una grande adorazione per Neil Young. Ma anche se in questo pezzo, nel cantato, ci sono anche più di un passaggio che ricorda molto Cat Power. Big nothing blue. You go out tonight. Paper your cracks just to keep them alive. I don't know if I play that right. Take it or leave it. I have to keep it. I have to keep it. e siamo tornati invece all'album Your Hero Is Not Dead. Questo è il secondo pezzo, anzi in realtà il terzo. Big Nothing Glow. Big Nothing Glow. Ecco, a leggere i testi, l'ho detto, sono abbastanza oscuri, non si capisce bene la tematica, ma noi fortunatamente abbiamo le sue parole in cui lui ci racconta. E questo pezzo parla della tragedia, direi, dei senza tetto, degli homeless, che lui ha visto, insomma, aggravarsi particolarmente a Londra. I had to keep it. As I look out from a likely informer in the grid till the gas runs out, to an old friend slipping rough downtown, take it or leave it, I will repeat this. E anche il timbro della voce ha qualcosa di antico. Questo è uno dei pezzi in cui ricorda in particolare Arthur Russell, musicista sperimentale, fine anni 70, primi 80, soprattutto vittima dell'AIDS, la cui gloria è stata più postuma che in vita, infatti vengono continuamente pubblicate delle compilation, delle raccolte. Anche un po' l'eco e il riverbero. Tutte sottigliezze fornite dal suo amico collaboratore e produttore da anni, Bullion, ne parleremo ampiamente. Conferma della sua passione per la musica anni 70, il folk, in uno dei suoi mix che ha fatto in questi mesi, in questo caso per Crack Magazine, Sunday Mix, a fine marzo ho scoperto questa chicca. Do I Still Figure in Your Life di Pete Dello and Friends. Cantautore di Oxford, attivo negli anni 60 e 70. Pezzo davvero delizioso, tratto da un album del 1971, yeah! Quindi questa canzone ha la mia età, infatti è fantastica, e l'album si chiamava In Your Ears. i primi pezzi, come Harvard e gli altri che accompagnavano questa pubblicazione nel 2016, erano ancora un po' acerbi, mentre il suo suono si evolve dopo appunto anni passati a suonare in questi locali londinesi, e vinse anche il Best Country Folk Act degli Unsigned Music Awards nel 2016, che, come si capisce dal nome, preme quegli artisti ancora senza contratto discografico. Poi nel 2017 nasce l'etichetta, lui diventa parte della famiglia dell'etichetta. Everybody needs, but everybody wants us. E inizia la sua collaborazione con Nathan Jenkins, in arte Bullion. At least he tells you so. But is it right to lay it all out like that? Is it right to lay it out? What no one but Narcissus, I don't want no one else but him. Laughing as we go across. Nel 2017 appunto nasce la collaborazione con Bullion e esce il primo EP, Call and Response, tre tracce. Sebbene diciamo il lead single fosse Rhodes, noi abbiamo scelto invece un'altra traccia, si chiama Keep Track. Stesso 2017 comincia ad andare in tour con Nil Ferjania, che poi successivamente lo ha scelto anche come suo supporto per il tour britannico di Miss Universe, suo album l'anno scorso. Ma torniamo a Your Hero Is Not Dead, con uno dei primi pezzi diffusi prima della pubblicazione ufficiale del disco, ovvero era all'inizio di aprile. E Westerman condivide questa Waiting on the Sign. E anche la decisione di condividere alcune canzoni non faceva tanto parte di un piano promozionale quanto proprio dettato dalla situazione della pandemia, del lockdown, dell'isolamento. E infatti, introducendo questo pezzo, dice: è una canzone sulla stasi. Appunto, per chi è più giovane, non ha mai ascoltato certa musica, questi sono suoni nuovi, curiosi. The memories and waves of stamps and your blood. last one got home. Sicuramente ipnotici, affascinanti. Come back, maybe we should stay for one more drop of something. I love to watch that nothing come. I'm waiting on design, picturing you. Pure granite. No one wants to look at themselves through the faces they have stranded. To fall the inside. Oh, once, oh, twice. Oh, once, oh, twice. Oh. E Will dice: pensavo all'assurdità del sé, a come nessuno ama vedersi dal punto di vista delle persone che hai fatto soffrire. E ciò che trovo interessante nella narrazione, storytelling, non è tanto la storia in sé, ma che le persone si trovino accomunate dalla comprensione di ciò che la storia evoca. Anche questo. Proprio evoca un'atmosfera, per questo anche scritto. Sto preparando una trasmissione sul mio disco preferito a 13 anni. Sarebbe stato il mio disco preferito perché i miei dischi preferiti a 13 anni erano molto simili a questo suono, ma anche prima in realtà, a partire dai 9-10 anni. Quindi, come dicevo, tendenzialmente la prima metà degli anni 80 quindi un desiderio di una mutual connection. E poi, appunto, visto il periodo in cui è stata diffusa, lui scrive: spero che questa sospensione della vita come la conosciamo non sia troppo per voi in questo momento. Ho pensato molto a cosa posso fare e dovrei fare. È un po' disorientante quando ti tirano via il tappeto sotto i piedi. Ed è stato meraviglioso vedere una risposta collettiva così rapida a questi tempi di solitudine forzata. Mi aiuta molto pensare ai diversi modi in cui la musica sostiene le persone che si sentono sole. E questa musica arriva in risposta alla sensazione di isolamento e disconnessione. E spero che trovi voi e i vostri cari soli ma insieme. E da quel momento, appunto, ha deciso di pubblicare una canzone nuova del disco ogni due settimane. E questa è la bellissima The Unordained da Miss Universe, della già citata e annunciata Niloufer Yagna dal bellissimo Miss Universe 2019. Love is not the cure. Like we already made up our minds and the plan. fashion scrolled lines, I let them leave. Both arrogant and kind. Reason B, is it too soon to hate you? Let them leave. They come some trouble to get to. When I'm in talks with something in my mind, when I'm in love, my love is not like yours. I'm in love, my love is not like yours. Is it too soon to hate you? There comes some trouble to get to. Nelly Ferragna è appunto una di quelle artiste che ha incorporato tanti elementi nel suo pop strano, da un suono alla Pixies al jazz. Siamo arrivati al febbraio del 2018, seconda release, un 7 pollici composto da Confirmation e da il pezzo che stiamo ascoltando adesso, I Turned Away. Confirmation fa drizzare le orecchie a tutta la stampa specializzata, ma anche e soprattutto a Pitchfork. Che inserisce il pezzo non solo tra le migliori 100 canzoni del 2018, e grazie a questo noi l'abbiamo conosciuto. Ma lo invita anche a suonare al pre mini festival di artisti emergenti del Festival Pitchfork di Parigi, ovvero l'Avant-Garde Pitchfork Paris del 2018. Ma perché non ascoltiamo allora Confirmation, visto che è un pezzo spettacolare? Anche questa, John Dewey, è molto Arthur Russell. Non ascoltiamo Confirmation perché è una versione un po' più robusta. È stata inserita anche nel nuovo album, quindi lo ascolteremo dopo. Questo pezzo non è uno dei più accattivanti, se non per quel bridge che abbiamo sentito poco fa, ma visto che noi documentiamo tutta la produzione discografica, abbiamo inserita in scaletta, così come abbiamo inserito un altro musicista che avevamo già nominato sempre nella puntata dedicata a Nelly Ferragna, in quanto produttore e coautore di una delle tracce del suo album. Io anche sospettavo che fosse anche il batterista della sua band, ma non ho mai capito veramente fino in fondo. L'abbiamo scelta a maggior ragione perché fa parte appunto di questa nuova generazione, anche molto, molto collocata geograficamente. Perché si sa che West London non può essere come East London. Abbiamo scelto questo pezzo molto godibile perché anche questo è un pop un po' retro e perché comunque è uno degli artisti che Westerman segue, di cui è fan, lo abbiamo evinto dalla sua pagina SoundCloud e quindi ci stava assolutamente di diritto. Questo pezzo si chiama Private Eye, tratto da Empty, suo album dell'anno scorso. Martin Hadley, in arte M.T. Hadley, un riferimento alla montagna lunare Mount Hadley. Indie e soul, e anche lui ha collaborato con Bullion. Ma torniamo all'album di Westerman, Your Hero Is Not Dead, con uno dei pezzi di punta, Think I'll Stay. On my back on a king size bed, I'm alone. I control the controllables. Don't take comfort in cheating death, but I will look forward to meeting you, my friend. Can I look the other way? Crying hurts, but it keeps me entertained, and I don't know. Dei pezzi più mossi dell'album. Now you ask a lot from me. Dead flowers, postcards and rain. Again. Chronic pain. You're in chronic pain. Chronic pain. È una canzone sul dolore cronico. To where people need me. Young man, e non è il primo musicista a farlo. That's just another day. I will die at work. Till then, keep me entertained. And I don't know. I don't know how I got here. But now that I am, I think I'll stay. I don't know. canzone che si presta tantissimo al sing-along. È un pezzo scritto in un periodo di continui spostamenti e che origina da un tipo di dolore molto specifico di cui soffre, ma allargato al concetto generale della sofferenza fisica che tutti i corpi, insomma, provano nella vita. E quindi, anche parlando con un amico che gli diceva «pensa, mi toccherà di dover lavorare fino a 80 anni», lui ha pensato che non c'è nessuna differenza tra il suo dolore e quello appunto che, prospettato da questa idea. Però la linea di fondo è che comunque ne vale la pena, è una, come una distorta celebrazione dell'essere vivi, una leggera affermazione dell'essere, la serie comunque vale la pena restare, resistere, sopravvivere e convivere anche con il dolore. L'andamento di questo pezzo, alcune note mi hanno fatto tornare in mente quello che era appunto uno dei miei ascolti a 13 anni. Ovvero Daryl Hall and John Oates. Perché io nell'83-84 ho comprato i grandi successi di Hall & Oates edizioni sigla 4, ovvero la casa discografica di Rete 4, giuro, e abbiamo scelto due dei pezzi più cari a me. Questa è Kiss on My List. Seguita dal primo pezzo che io ho conosciuto, perché ho anche il 45 giri, questa Private Eyes, Kiss on My List da Voices del 1980 e Private Eyes dall'album omonimo dell'81. Così nella preparazione di questa trasmissione ho fatto veramente un salto nel passato, come sempre d'altra parte. Anche perché comunque la cifra stilistica di Westerman è questa associazione tra un soft rock anni 70 radiofonico, o anche gli anni 80, quello anche definito AOR, ovvero Album Oriented Rock, poi c'erano questi proprio format di programmazione musicale radiofonica che facevano ascoltare insomma a rotazione non solo i singoli ma anche tutti i pezzi di un album, cosa che si è persa tragicamente, unito invece a suoni molto raffinati, elettronici, delicati a cura di Bullion. E questo gioco continuo di rimandi tra la voce e la chitarra di Westerman, perché comunque la composizione parte sempre con gli accordi sulla chitarra acustica, un testo e poi si pensa alla ritmica che ci può andare bene. E lui dice che è un lavoro di sottrazione, ma nel senso di, dal punto musicale, di sperimentare, ci metto questo, non va bene, lo tolgo, provare. E invece dal livello del testo lui dice: io scrivo molte parole di quelle che poi rimangono nel testo, cerco di sgrossare il più possibile per lasciare appunto l'essenziale di quello che io voglio comunicare, anche per dirigere l'attenzione, far concentrare l'attenzione dell'ascoltatore appunto sul concetto, per far arrivare appunto il messaggio. È anche una cosa di cui ha bisogno lui stesso, concentrare l'attenzione, visto che è stato diagnosticato nel 2017 la sindrome appunto da deficit di attenzione e iperattività, ADHD. E dopo il singolo a inizio 2018 con Confirmation e Turned Away, nell'estate un altro 7 pollici con il pezzo che stiamo ascoltando, Edison. Una canzone che parla della fatica, del lavoro creativo, l'applicazione, la disciplina, quindi Edison come riferimento alla lampadina, cioè l'idea che non viene frequentemente definito il light bulb moment. E così appunto si stabilisce il suo suono, che la parola, l'aggettivo che ho trovato di più nelle recensioni è gentile. Dell'interesse di Pitchfork, già nell'aprile 2018 Westerman è oggetto di un'intervista molto approfondita che va sotto il nome editoriale di Rising, ovvero tutti quei pezzi dedicati agli artisti emergenti, e dopo appunto racconta della sua infanzia, 8 anni corista, poi la frequentazione del prestigioso collegio Charterhouse nel sud dell'Inghilterra grazie a una borsa di studio, dove appunto lì ha appreso a livello accademico, cioè ha scoperto perché la musica corale ha il potere di far venire i brividi, e quindi poi parla della sua passione per le melodie ecclesiastiche di John Taverner e Henry Purcell. ed ecco che arriva Arthur Russell. Questo pezzo non lo conoscevo, non ce l'avevo, ma l'ho scoperto sempre grazie a Westerman e ad un suo mix che ha pubblicato il 21 aprile, si chiama Huxley Mix, perché i pezzi sono inframmezzati da brani di intervista, un'intervista del 1958 a Aldous Huxley, famosissimo per la sua distopia Brave New World. Questa compilation ci sono, inizia col canto dei Templari, poi ci sono pezzi jazz, sia contemporaneo Thundercat che Miles Davis, e poi Neil Young, Drutti Column, e questo pezzo di Arthur Russell, Everybody, Everybody. Questo pezzo si trova in due compilation, una del 2008, Love is Overtaking Me, ed una dell'anno scorso, Iowa Dream. Quella è stata anche l'occasione per diffondere la title track del disco Your Hero Is Not Dead a conclusione di questo Huxley Mix. Ecco, all'ultimo momento mi sono accorta che le note erano piuttosto simili tra Everybody e questo delicato pezzo strumentale dell'album, che si chiama Dream Appropriate. E credo che non possa essere casuale, e che forse questa voce che si è sentita fosse quella di Huxley, chissà. Essendo abbastanza breve, anche in questo caso ci abbiamo unito. Il pezzo successivo dell'album, Easy Money, anche in questo caso, come nel caso di Confirmation, non è una novità, perché era la B-side del singolo Edison, ma che non ha subito nessuna modifica, è proprio la stessa versione, perché ci si incastrava bene. I don't doubt somebody's working harder now. È anche un pezzo, il primo pezzo che ho sentito che mi ha fatto pensare ad Arthur Russell. that it all comes back around somehow. This is easy money. It's easy money. Mentre Edison forse è il pezzo che nell'atmosfera ricordava più Niloufer Young, e che era stato anche remixato da Ross from France, un trio di simpatici ragazzotti con cui abbiamo fatto dei quasi dei testa coda per portarli al link. Che sebbene sia un album pieno di considerazioni, rumination usano molto gli anglosassoni, meditazioni tra sé e sé, ci sono anche appunto degli aspetti, dei toni un po' leggeri con anche Think I'll Stay. E in questo pezzo che invece parla delle gioie, della ricchezza materiale, soldi facili. Worry makes you ill, ornament my body, 'cause I like how it makes me feel. This is easy money. Anche questa mi suona di un antico. It's easy money. Beh, lo dico sempre, ma TFM è autoreferenziale, è biografico. Worry makes you ill. Stay still. Now I can have my fill. So I will. Throwing out the pill, throwing out the pill, throwing out the pill. E tornando allo speciale di Pitchfork Rising, Will parla della sua attrazione per le spossanti progressioni di accordi di alcuni canti religiosi. È un aspetto che ha riportato nella sua musica, in cui una leggera dissonanza si combina con suoni melodiosi, producendo un effetto ammaliante. 16 anni, ha imparato a suonare la chitarra da autodidatte, ha fatto la sua prima esibizione live in un concorso scolastico, che era un raro evento perché il suo collegio, il Charterhouse, non invitava tanto alla creatività individuale, pensiero indipendente. E per questo era proprio infelice in quel periodo, non riusciva a partecipare alle lezioni come i suoi compagni di scuola, veniva accusato di essere pigro, che durante matematica e scienze era perso nel suo mondo, e questi giudizi lui l'ha interiorizzati, chiedendosi per molto tempo cos'è che non andava bene in lui. Quale fosse la causa, e poi c'è stata appunto, è arrivata poi la diagnosi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività. E uno dei nomi che ricorre più spesso nelle recensioni è riferimento ai Talk Talk. Andando a cercare nell'archivio di Might FM, mi sono stupita di non aver mai messo questo, che è il mio pezzo preferito. In realtà abbiamo messo solo un'altra traccia nella puntata dedicata a Perfume Genius. Questo capolavoro, Life's What You Make It, da The Color of Spring dell'86. Il riferimento probabilmente per la ritmica per la sperimentazione, per i synth. E per un motivo che ci sono un po' quelle cose che si dicono, che si scrivono di un album, quelle diciamo un po' più, quelle che funzionano di più, che poi vengono riportate da tutti i giornalisti, da tutti i recensori, ovvero che la canzone che dà il titolo all'album, Your Hero Is Not Dead, è stata anche ispirata, influenzata dalla notizia della morte di Mark Hollis, cantante Talk Talk, a fine febbraio del 2019. E lui scrive: sono venuto a sapere del passing, un modo delicato che ha la lingua inglese, insomma, della morte di una delle mie voci preferite. E torniamo appunto ad una traccia di Your Hero Is Not Dead, che è stata la prima che è stata diffusa nel mondo, era ancora il 15 gennaio, si tratta di Blue Comanche, e ha presentato per la prima volta l'artwork dell'album, ovvero ogni canzone ha un disegno, sono state tutte diffuse o come immagine fissa o come animazione da chi ha curato il booklet, l'artwork, lettering, tutto quanto dell'album, ovvero da un artista che si chiama Braulio Amado. E qui il synth sottofondo. Richiama Kate Bush. I'm nearly disabled, ready to take your calls. There's enough on my hand. No trees past the acorn. You made a pact I heard. That's enough. Qualcosa della melodia che richiama anche Sufjan. I wasn't there, could not relate. Wasn't to know. My head goes now, the rest must follow. I have been looking for an answer. Turn back now. On at sundown, turn back around. Questo è uno dei due pezzi che mi fanno quasi piangere. Delicatissimo, malinconico. Turn back around, come and she walk me through the blue corn at sundown. Turn back around. Questa invece è una canzone che parla della degenerazione del nostro ambiente proprio. L'inevitabilità della perdita ambientale come conseguenza della modernizzazione, quindi questo appello a questo Comanche, quindi appunto una figura di un passato, di una natura incontaminata come simbolo di tornare indietro, di riportarci indietro. Che se lui dice non credo che dovremmo tornare all'età della pietra, ma ciò che si è perduto provoca tristezza. E poi parla del, cioè di come sia difficile conciliare delle preoccupazioni appunto con quello dell'ambiente, con la politica partitica, che è frustrante perché è ciclica, perché è caratterizzata da compromessi, come diceva Gandhi, concessioni. E spesso la politica è inconciliabile con l'etica. Che Westerman è ossessionato dall'etica, ha studiato all'università, nell'ambito della filosofia greca. E in tutto questo album c'è sempre questa preoccupazione per molte delle questioni della vita contemporanea. E dopo averlo nominato, spesso siamo arrivati alla produzione di Bullion come artista. Anche lui londinese, anche lui di West London. Ha pubblicato per gli Young Turks, R&S, come produttore ha lavorato per Sanfa, David Byrne. Questo pezzo molto bello, è il primo del suo ultimo EP che è uscito a febbraio di quest'anno. Si chiama Oh Vermona e l'EP si chiama We Had a Good Time. Quasi un electro country, anzi. Desert Blues, tipo la colonna sonora di Pari Texas, insomma, Ry Cooder, ecco. EP di Bullion uscito per la propria etichetta, la Dick Recordings, su cui ha pubblicato una serie di compilation di cover, a cui ha partecipato Nelly Fuorianne con la famosa cover di Hey dei Pixies, ma anche i Red Axis. E ovviamente Westerman stesso appare in due di queste compilation, una con una cover di Simon Garfunkel e un'altra invece di una band anni 70, country e prog rock. E Bullion è uno di quei producer che hanno anche avuto un proprio show radiofonico su NTS. E tornando a Westerman, eravamo arrivati alla diagnosi del ADHD. C'è una scoperta che gli ha cambiato la vita, non nel senso, lui dice, che ora di colpo è tutto diventato facile, ma perché almeno adesso tutto comincia ad avere molto più senso. Poi racconta della sua passione giovanile per i Kings of Leon, il Southern Rock, ecco, ci ricolleghiamo a Bullion. Poi della passione ereditata dal padre per Neil Young, di cui ha fatto suo il principio importante che devi saper suonare la tua canzone da solo su uno strumento, e infatti per questo Will compone con la chitarra acustica. E poi parla appunto dell'inserimento dell'elemento elettronico, che è un interesse che è nato proprio dal fatto che l'elettronica fosse il terreno di Bullion, un musicista completamente software based, senza una base classica dell'aver studiato la musica, uno strumento, e aver scoperto appunto la infinita possibilità e libertà. Ed ecco finalmente la versione più robusta del pezzo, insomma, della sua rivelazione, rivelatore, del suo talento, ovvero Confirmation, tra parentesi SSBD, che non so cosa significhi, ma sarà appunto la versione attuale. Staring at a horse, got dead legs, it's got nothing going on, wasted hours. Blame it all on the establishment, so boring, take me back, don't you wonder why? Confirmation's easier when you don't think so much about. Trying and it won't work. I still can't get my head around that. Confirmation's easier when you don't think so much about it. Trying and it just won't work. Can I understand it? Un pezzo caratterizzato da cambi di accordi poco ortodossi, è stato definito. È una canzone che è una folgorazione, lo è stato almeno per me. E che parla proprio dell'imprevedibilità del processo creativo, del proprio processo di scrittura, tra blocchi e appunto scelta infinita. Infatti anche la mia domanda che ho appunto per gli amici musicisti, compositori di canzoni, è: quando è che senti, quando è che capisci, decidi che un pezzo è finito e completo? Cioè, come fai a resistere a fare continue modifiche o decidi che è finito quando non ne puoi più? E il ritornello è: ma ti chiedi mai perché la conferma è più facile se non ci pensi troppo? E torniamo appunto alle infinite possibilità dell'uso dell'elettronica, perché un synth può cambiare molto proprio la sensazione provocata, suggerita da una musica, che è una cosa difficile da fare solo con voce e chitarra. E anche la scoperta che invece una linea melodica di synth può sostituire un verso. Al posto delle parole ci va una linea melodica fatta da un sintetizzatore. E lui dice che nella musica ci sono vari livelli di comunicazione e la melodia è quella principale per lui, e io sono d'accordo. Ed ecco che perché puoi essere toccato o colpito da una musica senza capire necessariamente le parole. E poi appunto parla anche dei testi, il suo processo mentale è caotico, ma nella scrittura si riduce a una struttura, a una forma che scaturisce da questa cozzaglia di pensieri casuali e contraddittori. E che poi è l'effetto catartico di ogni processo creativo, anche nella cucina, dice lui. Infatti piace molto cucinare, mettere cose insieme. Poi parla dei suoi autori preferiti, Baldwin, Hemingway, non come persona ma per la prosa forte, pulita, e Steinbeck. E poi parla dell'evoluzione musicale a partire dal primo EP a Confirmation, appunto, c'è meno opacità, è più diretto nell'esecuzione, delivery. Take me somewhere new, maybe a lake nearby, some views. È una consapevolezza crescente di avere cose da dire, motivo per cui ha iniziato a fare musica. We could spend the day here. E poi una cosa che ho trovato anche in un'altra intervista è il fatto che ai tempi del 2016 aveva dei gran capelli lunghi, invece adesso in tutte le foto, cioè quasi con i capelli a zero, e lui dice sì, cioè ho deciso di tagliarmi i capelli, uno perché non è che servivano a molto, e poi l'ho fatto appunto per beneficenza, e poi perché comunque avere i capelli lunghi era come se mi volessi nascondere, e quindi una maggior sicurezza di sé, confermata dalla produzione successiva che stiamo ascoltando. Novembre del 2018 esce un EP di 4 pezzi. Quest'inizio sembra Dut Dut, abbiamo già nominato anche l'altra volta. Allora, l'EP si chiama Ark, 4 pezzi, la prima che abbiamo sentito Albatross, questa si chiama Own, poi Outside Sublime e Ark, e l'abbiamo mischiato un pezzetto per canzone. Il primo pezzo Albatross l'avevamo messo come contributo alla puntata di Nilio Feriani. Queste 4 tracce scritte in 3 giorni. Un EP simbolo di transizione. Proprio la decisione di fare musica che gli desse forza, empowering, in reazione e sfida alla sua solita retorica, parole sue. E il contenuto dei pezzi è sempre molto personale, frustrazioni, complicazioni, aspirazioni. E sicuramente Albatross è il pezzo migliore, c'è un video anche di questa Outside Sublime. E anche qui torniamo un po' in terreno americano con la title track Ark. Drop me off by the lake, I watch him shake like hair in a vacuum. Too. ho trovato tante interviste approfondite molto molto interessanti. Ma basterebbe anche solo per capire un po' tutto del disco Your Hero Is Not Dead leggere quello che è il box informativo di solito sulla destra di una pagina Facebook. Throw the sink in the fire, baby. Long day. Power's something you believe in. Something you gain. 19 hours came so supreme. E siamo arrivati al 2019, anno della cover di Simon & Garfunkel che abbiamo nominato prima, ma anche di questo featuring strano, un'apparizione con la sua voce in un remix fatto dal suo stesso autore, ovvero Amen Dunes, bellissimo album Freedom del 2018. E questo pezzo è L.A. Questa prima parte è la versione originale. Siamo sempre nel Southern Desert Rock. Il remix. Che ci accompagnerà in sottofondo. L'album Your Hero Is Not Dead, scritto e arrangiato da Westerman, che ha anche suonato chitarra, sintetizzatore, harpsichord. È prodotto, mixato, più drum programming, synth e backing vocals da Bullion e altri musicisti ospiti, sia a livello di cori che di strumenti. Tra l'altro su Waiting on Design alla batteria c'è Fabian Prin, che abbiamo nominato tantissimo come produttore di Douglas Dare. Ma non abbiamo detto invece che questo album non esce per la Blue Flowers, ma per la Partisan Records. L'abbiamo già detto in un paio di occasioni in puntate precedenti. Partisan Records è un'etichetta nata a Brooklyn, indie folk, avanguardia, afrobeat, che è una delle prime release fu appunto quella della riedizione di tutto il catalogo di Ferracuti, per cui incidono Idols, Bombino, Ultra Ista, Cigarettes After Sex, Fontaines D.C., Laura Marlin, John Grant, insomma 16 artisti in totale attualmente, ma insomma di alto livello. E del proprio disco Westerman dice: volevo fare qualcosa che alla fine tirasse su di morale. Volevo dire, in modo più semplice e sincero possibile, che ci sono ragioni per avere speranza. Visione pienamente realizzata in un disco che parla di empatia e compassione, della lotta continua alla fatica e poi il rilassamento, e di tutti i modi in cui ci contraddiciamo e lottiamo dentro di noi. Canzoni cesellate in maniera artigianale che parlano delle aree grigie nella morale, nella politica, nell'etica. tentativo di risolvere problemi esterni guardando dentro di sé, come un giovane Peter Gabriel nell'era del capitalismo avanzato. La musica di Westerman si colloca da qualche parte tra sofisticato soft rock e pop elettronico intimista. Conflitti interiori trasposti in musica, scrittura come modo per venire a capo di concetti e paradossi che non sempre possono essere espressi a parole. E in questo modo trovare catarsi, chiarezza. Un modo di comporre attraverso un processo di espulsione, l'urgenza di esprimere qualcosa in un modo che non può essere trasmesso o comunicato con una conversazione. E musicalmente, un continuo processo di sperimentazione, creazione di una propria tavolozza sonora, Sonic Palette, quindi una strumentazione coerente per accompagnare o giustapporre testi e melodie di ogni canzone. E torniamo appunto ad un altro pezzo di Your Hero Is Not Dead. Paper Dogs. Short, quick, cherish them. She's wise. Cherish them. And I was talking about moving circles when you call. Moving circles when constant motion, man. Am I moving? Out of motion, man. Am I moving? The stream of accidentals got quicker by the day. Return to elemental and calling out your name, your price. I'm losing it all in the end. Your price, I'm losing it all in the end. Man, the breach, my pride won't let me defend. Your Hero Is Not Dead parla dell'esistenza in quanto esseri umani pensanti e pensosi. You're taller than the story. Esseri umani che riflettono, si interrogano, meditano per cercare di trovare una qualche speranza in un disordinato mondo di contraddizioni. E infatti il fatto che sia uscito in questo periodo, lui aveva paura che l'uscita del disco venisse annullata, rimandata. Invece, siccome il suo desiderio era proprio creare un album, perché questi ultimi anni, dice, secondo me appunto il mondo non sta progredendo, sta regredendo, proprio l'idea era di dare una sorta di conforto, di speranza, di raggiungere che si sente isolato, solo. E quindi il fatto che sia uscito adesso è proprio conforto ideale. Un altro salto nel passato. Cocteau Twins, 50-50 Clown, Heaven or Las Vegas, 1990. Uno dei miei gruppi preferiti di tutti i tempi, dai 15-16 anni in poi, tutti i vinili, tutti gli EP, tutti i singoli, tutte le meravigliose copertine della 4AD. E questa invece è stata un'aggiunta alla scaletta quasi un po' alla fine, perché è stato inserito in un DJ mix che ha fatto per la gloriosa KXP Radio di Seattle all'inizio di giugno. E quindi, tornando all'intenzione di Westerman nel comporre questo disco, una conferma del suo desiderio di fare musica, che è nato dal sentire una certa comprensione umana implicita, qualcosa di non detto, una sensazione provocata ovviamente dall'ascolto della musica altrui, quindi la speranza di poter trasmettere la stessa cosa a chi ascolta la sua musica, per essere parte di questa conversazione umana, creativa e spirituale. E una delle analisi approfonditissime dell'album e l'intervista l'ho trovata su Atwood Magazine, dove per esempio appunto si parla dello spazio nelle sue canzoni, lasciare spazio alle sensazioni, alle note. Infatti lui dice: sì, penso che un sacco di musica ha troppe informazioni, troppe parole, mentre io cerco di essere conciso e passo un sacco di tempo a editare, a rifinire, a tagliuzzare per essere più sintetico possibile. E qui appunto il discorso di dirigere l'attenzione dell'ascoltatore su quello che è fondamentale. E arriviamo al penultimo pezzo dell'album, si chiama Float Over. Quanto riguarda la sua preoccupation, sua preoccupazione, attenzione alle questioni attuali, molto interessante il suo post nel giorno della pubblicazione dell'album, il 5 giugno. Don't be afraid to take it as it is and let it flow over. Che in questo pezzo dice: non aver paura di prenderla così com'è, per com'è, e fartela scivolare addosso. Insomma, il 5 giugno dice: sono stato in ascolto e mi sono rieducato recentemente, e come beneficiario di un presente e storico sistema di ineguaglianza razziale, non è il tempo delle parole per me, su di me. Questo è un periodo cruciale nella storia umana. C'è una reale possibilità per un cambiamento nel corso delle cose. Oggi esce il mio disco e, anche se io sono molto molto orgoglioso, se avevate intenzione di comprarlo, per il momento non lo fate, ma date la stessa somma per una delle cause elencate nel sito Black Lives Matter. La vita umana è la cosa più preziosa su questa terra, e non c'è qualcuno che ha più valore di un altro. L'ingiustizia deliberata è una malattia, e invece questo capolavoro che tutti conoscono è God Only Knows dei Beach Boys, Pet Sounds 66. Perché uno dei ultimi pezzi dei Pitchfork su Westerman è proprio dell'altro ieri, e questa è una canzone che lui avrebbe desiderato scrivere. God only knows what I'd be without you. Dice: amo il fatto che sia così immediata la melodia, è incredibilmente bella e quindi sono invidioso. Sembra una marching band di facce sorridenti con gli occhi spalancati, tipo come nello schiaccianoci. È sia allegra che triste, che è una cosa che io amo nella musica pop, perché la vita è così, no? Quindi c'è questa melodia incredibilmente leggera e gioiosa, e poi il primo verso che dice: magari non ti amerò per sempre. E lui dice che questa canzone è senza tempo perché è così facile da cantare. La melodia si muove in un modo che non devi avere un talento, un istinto musicale particolare per poterla riprodurre. Dice: anche un bambino di 3 anni potrebbe cantare questa canzone. E l'intervistatore dice: ma sarebbe una canzone un po' cupa per un bambino di 3 anni. E lui dice: ma la cosa fantastica di questo pezzo è che i bambini non saprebbero che cosa stanno cantando. E questo ci riporta al concetto che abbiamo detto prima, ovvero di come la melodia ti provoca delle emozioni, poi non necessariamente sapere i testi. Siamo arrivati al pezzo conclusivo, la title track, meravigliosa. E appunto ispirata dalla morte di Mark Hollis, ma anche dalla malattia di un amico. Busy working. Busy avoiding. There's something in it. I'm not entertaining. Una canzone scritta per il suo amico, per se stesso, come accettazione delle sfide che ti presentano la vita, della fatica, della lotta. Una canzone che non era previsto che venisse diffusa così da sola, ma lui l'ha fatto apposta il 21 aprile, nel pieno della crisi della pandemia, sperando che appunto desse conforto anche agli altri in questo momento. Your hero is not there just sleeping behind the bars you cling to. On days you'd like to dismiss the ones I like to sing to. From dark into blue. From dark into blue. Dice: certo, quando ho scritto il pezzo non mi immaginavo una situazione del genere. Però il sentimento della canzone potrebbe essere appunto una cosa di bella da essere diffusa in questo momento, che poi appunto è l'idea centrale dell'album. Speranzoso, confortante, e sicuramente questo è il momento giusto. Con la speranza, lui dice, che questo periodo ci faccia riflettere su quanto siamo fortunati normalmente ad avere le libertà che abbiamo, e che si dovrebbe approfittare per ripensare come far funzionare meglio la società, perché le conseguenze di questa cosa dureranno anni. Quindi grande approccio filosofico, la filosofia che ha studiato, in sintesi suoni sintetici, sensibilità folk, testi introspettivi, una scrittura come strumento terapeutico, ma poi quando le canzoni escono fuori magari possono aiutare anche altre persone. Metascore 77 su 9 recensioni, tra cui gli 8 di Pitchfork. Enemy Clash Music, voto più alto, The Line of Best Fit 85. Il tuo eroe non è morto, sta solo dormendo. Ciao da Claudia, Mighty Mouse.